Domani ci sarà il presidio di le varie realtà che sono in dissenso con l'attuale clima e le attuali leggi razziste e si terrà in Piazza dell'Unità in Bolognina dalle 17 alle 19. Abbiamo scelto un presidio che per ora vuole essere, non sappiamo ancora se sarà mobile o permanente per il futuro, ma è un presidio per far sì che ci sia una presenza che si faccia sentire per la città. Nelle varie assemblee continue cittadine antirazziste si è sentito il bisogno di uscire dalle proprie case e parlare delle proprie esperienze, perché le leggi razziste, le leggi discriminatorie toccano più persone. E infatti domani ci sarà questo presidio a microfono aperto in cui tutte le persone sono invitate a partecipare, a passare e darci, informarci, sensibilizzarsi su una parte della loro vita, perché se un diritto viene tolto a qualcuno viene tolto a tutti, da cui anche un po' lo striscione appunto se per tutti o per nessuno. Si è scelto poi Piazza dell'Unità non tanto vista come piazza periferica, ma quanto in quanto piazza centrale, perché c'è della centralità in Piazza dell'Unità, ci sono persone migranti, forti discriminazioni, pure c'è l'economia della città stessa, e quindi l'abbiamo vista in questo modo, in quest'ottica. Parlando un po' di H più in generale, si sono già tenute appunto alcune assemblee, come sta andando avanti proprio il processo di formazione appunto di questa assemblea continua che appunto domani sarà alla sua prima ascesa proprio in città, diciamo, nelle piazze? Settimana scorsa c'è stata la terza assemblea cittadina continua antirazzista e c'è una forte presenza da parte di diverse realtà, da parte di singole individualità, quindi sta continuando bene. C'è questo bisogno appunto di parlare, di uscire, di condividere anche le proprie paure, ma anche idee, progetti. C'è una voglia di cultura all'antirazzismo, una voglia di autoformarsi, e questo è abbastanza trasversale anche a livello di età. Nell'assemblea arrivano persone giovanissime come persone anziane, migranti come non, e questo è stato sin dall'inizio un po' è trasversale. Proprio per questo il presidio di domani, al di là appunto del microfono aperto e quindi alla voglia di far partecipare tutti insieme, orizzontalmente ci sarà anche del materiale prodotto da altre realtà che condividono la paura, la preoccupazione per l'attuale clima razzista e discriminatorio che stiamo vivendo, e questo materiale ovviamente sarà distribuito domani al presidio. E invece per quanto riguarda appunto i prossimi appuntamenti di H, dopo il presidio di domani c'è già in programma un'altra assemblea? Sì, nell'ultima assemblea continua antirazzista cittadina abbiamo pensato a un'altra data che ormai è al di là delle feste, sarà il 9 gennaio verso le 20:30, proprio per continuare questo percorso, un percorso che non sappiamo dove ci porterà, un po' come il presidio, non sappiamo ancora se sarà mobile o permanente, ma di sicuro c'è questa voglia, questa esigenza, questa forza di voler condividere idee, paure e progetti, questo sia da parte di realtà che appunto di singoli individui. Quindi invitiamo tutti e tutte alla presenza domani, a venire al presidio in Piazza dell'Unità dalle 17 alle 19 e poi il 9 gennaio alle 20:30 per la quarta assemblea continua cittadina antirazzista. E per seguire, diciamo, gli appuntamenti ci sono dei contatti, dei riferimenti che puoi darci? Sì, abbiamo un blog ed è osservatoriohtuttoappiccicato.noblog.org.